il materiale di Tobias, la celebrazione del salto quantico, Taos, New Mexico, 18 settembre 2007, con Kutumi Yalsing, canalizzato da Jeffrey Hope, www.crimsoncycle.com, traduzione di Carla De Nitto. Namaste. Il pubblico risponde. Namaste. Namaste. Il pubblico di nuovo risponde. Namaste. È un salto quantico. Namaste. Il pubblico risponde più forte. Namaste. È un tale piacere per me, Kutumi, essere qui per questa celebrazione del salto quantico. Non ho bisogno di giochi di parole ora. Non ho bisogno di tanto humor, perché l'energia che avete accumulato da quando siete arrivati qui, l'energia che tutti noi sperimentiamo guardando le foto dell'iscia umbra di tutto il mondo, dice tutto. È l'illuminazione, è lo humor, è la profondità della vita, è la storia della vecchia energia e della nuova energia. Siete voi, mostrati qui sugli schermi, come un esempio per tutti gli esseri umani. I potenziali della nuova energia. Vorrei modificare un poco la mia presentazione oggi, perché abbiamo da condividere un momento così prezioso. Sentite l'energia che avete creato in questa stanza. È dolce, è spessa, è nuova. Contiene l'intera potenza, in latino nel testo, di tutto ciò che siete, di tutto ciò che potete essere. È la potenza della vostra guarigione, della vostra gioia. È la potenza della vostra passione che vi conduce in questa vita, che vi fa sentire interi e completi, e qui, in questo momento. Permettetemi dunque di essere il primo che lavora con voi, nel sentire la potenza della nuova energia, qui, nel momento presente. Come avete fatto? Avete solo scelto. Scelto di permettere a voi stessi di espandervi nella grandezza dei potenziali della nuova energia. Fate un respiro profondo. Chiudete gli occhi per un momento. Lasciate che la vostra immaginazione permei questa potenza che è qui presente proprio ora. È presente. Forse la vostra mente non lo sa. Forse vi state dicendo, non posso immaginarla, non posso visualizzarla. Ma è qui, è reale. Voi l'avete creata. Ora concedetevi di espandervi dentro di lei. Apritevi al di là di ogni barriera che avete avuto. Apritevi oltre ogni limitazione, ogni costrizione, e permettetevi di sentire tutti i potenziali. Non tentate di definirli. Non tentate di afferrarli. Non tentate di controllarli. Non ne avete bisogno perché vi appartengono. Cercate di sentirli per un momento. I sogni, le aperture, la passione, l'andare oltre, proprio come alcuni di voi nei giorni scorsi hanno sperato in quel buffo cesto con un gran pallone sopra volando nel cielo. Così non mi acchiapperete mai. Il pubblico ride. Immaginate di lasciarvi andare volando in tutti quei potenziali. Sentite cosa contengono e comprendete che ognuno di questi potenziali è vostro. Non creato da un altro essere umano, non creato da un qualche essere angelico, non da un qualche Dio distante e sconosciuto, ma da voi. Prendetevi un minuto per sentire e poi inspiratelo nella vostra realtà. Non dovete nemmeno definirlo. Abbiamo già parlato di questo. Nessuna definizione. Nella nuova energia, i potenziali sono molto più grandi di quello che la mente possa mai immaginare. Al tempo dovuto, la vostra mente comprenderà tutto quello che è accaduto. La vostra mente si espanderà per incontrare i nuovi potenziali della nuova energia. Per ora si tratta di accettare le cose che avete creato per voi, che sono così nuova energia, che sono così oltre. E per il ricordo della giornata di oggi e dei prossimi giorni, immergiamoci in questo lago di potenziali della nuova energia. Sì, intendo ognuno di voi. Sia che siate seduti qui, sia che state ascoltando attraverso internet, o ascoltando tutto questo più tardi. Sì, questi sono per voi. Aprite quella porta. Aprite voi stessi. Tutto questo vi riguarda. L'espresso del salto quantico. Il treno della vecchia energia è entrato in stazione qui, a Tao stanotte. Con così tanti di voi a bordo pieni di vita e spumeggianti, sapendo che era la fine del vecchio viaggio, ma anche con qualche ansia. Cosa c'è nel nuovo viaggio? Dove andremo da qui? L'espresso del salto quantico, dopo una breve fermata qui a Taos, ha lasciato la stazione alle 2.22 di questa mattina. Il pubblico ride. Tra tuoni e tagli di corrente in questa città. Guardate che cosa avete creato, Shaumbra. Guardate cosa avete creato. Ora stiamo volando verso nuovi luoghi, non in qualche altra galassia, non in qualche altra dimensione lontana, ma nuovi luoghi proprio qui e proprio ora, nel momento presente. Come ha detto Tobias, il veicolo, l'espresso del salto quantico è indefinito. Non sappiamo a cosa somiglia, non sappiamo come funziona, non sappiamo dove sta andando, ma è importante, noi siamo qui, siamo insieme. Quando una persona trascende lo spazio della vecchia energia ed entra nell'espressione della nuova energia, questo riguarda la fiducia. Riguarda la fiducia di essere qui in questo momento, di essere nella nuova energia. La nuova energia è diversa dalla vecchia. Non ci sono i demoni di cui abbiamo parlato nella vecchia energia. Non c'è la dualità. Può esserci nelle persone che vi circondano, ma non necessariamente in voi. Riguarda la fiducia, come dice Adamo Saint Germain in modo molto eloquente. Riguarda il credere che proprio ora, insieme, individualmente, stiamo planando nel potenziale della nuova energia. Se qualcuno chiede, cos'è questa nuova energia? È molto difficile fare una descrizione. Non somiglia a niente della vecchia. Non può necessariamente essere misurata. Non può essere quantificata. Sicuramente è molto difficile esprimerla con parole umane, per cui riguarda un atto di fiducia. Potete credere che siete nella nuova energia ora? Potete credere che avete già creato le risposte e le risposte sono molteplici, non solo una. C'è un campo, un intero potenziale di risposte là fuori e le risposte verranno a voi molto facilmente. Ci troviamo ora in questo campo di potenza, con tante risposte diverse. Le risposte nella nuova energia. Vi fate ora una domanda sui vostri potenziali della nuova energia. Ogni domanda è nella vostra mente. Domandate e poi lasciate la domanda entrare nei potenziali e poi ascoltate. Non necessariamente con le orecchie, ma con il cuore. Ascoltate con tutto il vostro essere. Rivolgetevi una domanda. Qualcosa che avete avuto in testa ultimamente. Qualcosa che vi ha disturbato. andate avanti. Fate un respiro profondo. Ponete la domanda. Osservate, la reazione è un po' diversa da quanto avete sperimentato prima nella vecchia energia. La domanda in sé, nella vecchia, era limitata e quindi la risposta tornava limitata. Quando vi ponete una domanda prima, era generalmente intrisa di sfiducia. La domanda era anche basata su molto di quello che era accaduto prima, per cui la domanda aveva una sua certa storia. Ma mentre ponete la domanda nella nuova energia, forse sentite una qualche piccola differenza, un'apertura, un'espansione, e forse mentre vi aspettavate di avere una risposta, non l'avete avuta. Vi domandate se vi siete posti la domanda giusta. Lasciate perdere tutto questo, perché l'essenza di ciò che state chiedendo è contenuta nella domanda. Non ha importanza che parole usate. Alcuni di voi hanno imparato così bene. Tentate di essere così specifici nell'usare le parole per la domanda. Pensate di essere così stupidi da non sapere che cosa state chiedendo? Risate. Siete così invischiati in questi processi mentali. Fatevi ora un'altra domanda. Fate un respiro profondo. Yo ham. Fatevi una domanda più grande, una domanda veramente importante. Oh sì, può riguardare voi. Non abbiate paura di fare domande che vi riguardano. Nella vecchia energia, forse hai interrogato Dio. Forse hai chiesto a Saint Germain e sicuramente non hai avuto risposta. Risate. Potresti aver interrogato Tobias. E lui ti avrà dato una qualche amabile, morbida, melliflua risposta. Molte risate. Ma ora domanda a te stesso, caro Dio. Chiedi a te stesso. Non a quel vecchio te che abbiamo lasciato alla stazione del treno stanotte. Chiedi a te stesso. Poni quella domanda. Oh sì, sento alcuni che domandano. Dov'è la mia dannata passione? Quando incontrerò qualcuno? Kutumi ride. Dovrete essere pazienti in merito a questo. Il pubblico ride e Kutumi ridacchia. Ora, sentite che la risposta è lì. Arriva da un luogo diverso, un luogo della nuova energia, ma non torna necessariamente in parole. Fatevi una terza domanda, una diversa, una grande domanda riguardo alla vostra vita, una domanda importantissima. Fate un respiro profondo. Io amo. Ponetevi la domanda. Alcuni di voi stanno cercando, tentando di comprendere qualcosa, anticipando ciò che sta per succedere. Ma indovinate? Non accade niente, perlomeno non con le aspettative della vecchia energia. È molto chiaro in questa potenza, questo gran brodo di ogni cosa, da cui dovete scegliere. È molto chiaro qui. Voi state aspettando delle reazioni. Aspettate una forza, un movimento, delle parole, una musica, delle danze. Vi aspettate qualcosa. Ma qui, nella nuova energia, la potenza è quieta. Oh, questo non significa che non ci sono risposte, significa che qui le cose sono molto chiare e voi non avete l'abitudine alla chiarezza, siete abituati alle cose un po' nebbiose, alle cose rudi e difficili, siete abituati a ricevere informazioni attraverso un vecchio circuito, il cervello. Il vostro passato, ma qui, in questa potenza, c'è chiarezza. Fate un respiro e sentite la chiarezza. Qui, nella nuova energia, la potenza è anche facile. È passato molto tempo da quando le cose erano facili. Pulsante. Linda preme un pulsante su un giocattolo che dice «È stato facile!» e Cthulhu mi ride. È passato molto tempo da quando le cose... Linda preme il pulsante di nuovo, provocando ancora più risate tra il pubblico e Cthulhu. Questo è Cold, che desidera uscire dallo stage ora. Ancora risate. È trascorso molto tempo da quando le cose erano chiare e facili e dovete raggiungere questa aspettativa per avere risposte. Sarà difficile e ci sarà confusione, ma è questa la nuova energia. Qui è così chiara, ma è piena di risposte, di potenziali, piena di tutto quello che state cercando. La nostra sfida ora, in questo momento con Liscia Umbra, la nostra sfida è: potete percepire e ricevere da questo campo di chiarezza e di facili potenziali? Una parte di voi è così abituata a definire le cose con la resistenza, con la forza che pone su di voi. Questa è la vecchia energia fisica vibrazionale. Nella nuova energia c'è chiarezza, non c'è resistenza. Così non c'è nulla che vi attrae. o attrae la vostra attenzione. Così dite: ma allora come posso sapere cosa c'è qui? È così trasparente, è come lo spazio cosmico, non c'è niente, né una spinta gravitazionale, né aria, niente. Questo è quando voi fate di nuovo un respiro profondo. Ricordate le parole di Tobias, lo Yo Ham, l'Io Sono, e voi permettete alla vostra risposta in questo campo di potenziali di arrivare a voi. Non percepirete necessariamente una forza o una pressione o delle parole. Entra semplicemente. Mentre la risposta alla vostra domanda entra, differisce un poco dal modo in cui avete percepito e ricevuto prima. Perché in quel ribollire di potenziali, la risposta che sta entrando possiede molti strati di risposte alla stessa domanda. Ricordate mentre guardavate i fuochi d'artificio la notte scorsa? È partito, poi c'è stata una prima esplosione, e poi un'esplosione e un'altra esplosione, e un'esplosione e un'altra esplosione, tutto da un singolo fuoco d'artificio. È molto simile ai potenziali della nuova energia, alle risposte della nuova energia. Arrivano a voi e ci sono molti, molti strati. Perciò fate un respiro profondo. Ponetevi un'altra domanda, una domanda importante, una della quale forse temete la risposta. L'avete così temuta che avete evitato di porvi la domanda. Fate un respiro profondo e ponetevi la domanda in questo campo di chiarezza e di facili potenziali. Se sentite che lottate con la mente, una lotta armata con la vostra testa, lasciate andare. Non avete più bisogno di farlo. Questo apparteneva al vecchio. C'è questa cosa che potete chiamare intelligenza divina. L'Io Sono. Yo Ham. È la risposta. Non qui, indicando la testa, non dal cervello, ma è la risposta, è la gnosta, la soluzione. Ma ora lo facciamo nella nuova energia. Ora siate pazienti, dopo aver posto la domanda. Siate pazienti. Siate nel momento presente. Dalla fisica della nuova energia e ancora di più dalla vera natura di chi voi siete, quella risposta arriva. La soluzione arriva, e lì ora. E ora, dentro di voi, in questo momento, in questa realtà. E in un lasso di tempo di minuti, ore, settimane, qualunque sia il tempo, la vostra domanda si svelerà nella vostra vita. La risposta perfetta, la risposta della nuova energia, data da nessun altro che da voi. Mentre lavorate con questo, mentre continuate a farlo nella vita senza conflitti mentali, sarete veramente sorpresi da quanto chiaro e semplice sia. Come ha detto Tobias, troverete che è estremamente efficiente. Vi renderete conto di quanta energia avete consumato in passato, lottando con i problemi, cercando di trovare risposte. Qui, ora, nella nuova energia, le risposte sono lì. Lavorare con la nuova energia. Come abbiamo detto, la nuova energia non lavora come la vecchia. È piena di sorprese. Non è lineare. Non lavora solo nelle direzioni di alto e basso. Lavora in tutte le direzioni allo stesso tempo. Perciò apritevi. Apritevi alle soluzioni, alle risposte, che la vostra mente potrebbe non aspettarsi, che voi potreste non aspettarvi, che possono cogliervi di sorpresa. La nuova energia lavora in modo così diverso dalla vecchia, non lineare, non limitata, non confusa. Voi siete il primo gruppo tra tutti gli umani con i quali abbiamo lavorato su questo. Dipende da voi se lo scegliete. Continuare il lavoro e svilupparlo e condividerlo con gli altri, attraverso i libri, attraverso le email, con riunioni come questa, raccontando come state personalmente sperimentando questa nuova energia, al lavoro, nella vostra vita. Voi già sapete che non si tratta di definirla. Non si tratta di scrivere un'equazione per spiegare come la nuova energia lavora. Si tratta solo di condividere la vostra energia in modo che gli altri possano vedere la diversità della nuova energia, la capacità di espansione della nuova energia, il vero miracolo della nuova energia, così che altri possano vedere come ha lavorato per voi in una data situazione. Come abbiamo detto prima, la vecchia energia lavora in modelli, modelli molto limitati e definiti. Se qualcosa accade oggi in un certo modo, accadrà in modo molto simile o in variazioni similari domani. Ma i modelli stanno ancora lì dentro. Potete osservare i modelli dei numeri, i modelli di come gli atomi e le particelle subatomiche e alcune delle altre particelle si allineano tra di loro, i modelli della gravità, i modelli del campo magnetico. Così ogni cosa diventa prevedibile nella vecchia energia. Nella nuova energia, questi modelli possono essere presenti, ma non sono dominanti. Non sono i modelli che creano l'effetto e la manifestazione di ciò che create e di ciò che state scegliendo. E tutto questo significa che dovete abbandonare le aspettative, osservare come le cose letteralmente si muovono dentro e fuori dalla vostra realtà. Veramente, un giorno qui, il seguente è andata, Suona strano, forse, ma osservate come la nuova energia lavora in modo molto diverso dalla vecchia energia. Osservate come voi vi muovete dentro e fuori da ciò che percepite come realtà umana. Siete ancora qui, siete ancora nel momento presente, ma osservate come vi spostate dentro e fuori, muovendovi fluidamente, fluendo. Non più come quando eravate incollati in certi posti, non più come quando le cose vi trattenevano, ma spostandovi dentro e fuori dalle zone della realtà. Giocare con la nuova energia. Sappiamo che la nuova energia è veramente sorprendente, assolutamente differente. Voi siete i pionieri in questo. Non rimanete indietro. Chiamiamo questo l'espresso del salto quantico perché riguarda l'espressione di voi stessi, riguarda il giocare con l'energia. Oh, stasera siete stati fuori sotto le stelle godendovi la musica. Giocate un poco con la nuova energia. Non vi preoccupate di ciò che potete o non potete creare. Giocateci e guardate come gioca con voi. Una delle cose che abbiamo appurato è che la nuova energia è altamente reattiva. Alcuni di voi hanno sentito che la vecchia energia era molto lenta, molto stagnante. La nuova energia diventa molto reattiva, ma in un modo inusuale e in modi differenti, non abboccate, Cthulhu ridendo, in modi molto differenti. Oh no, torniamo alla vecchia energia, risate, perché Cthulhu scherza sulla parola sbagliata. La nuova energia è molto giocosa, molto felice, molto reattiva, perciò giocateci, vedete come lavora. E poi, una volta che l'avete sperimentata, capite che domani o la prossima settimana non agirà necessariamente allo stesso modo. Molto diversa, sempre molto dinamica, può essere confusa sulle prime dalla mente della vecchia energia. Ma come abbiamo detto, la mente si allinea, la mente apprende anche ad espandersi. Sapete, la mente ha una programmazione interessante. È chiamato? No, risate, no, questo è piuttosto chiaro e semplice, ma non rende le cose facili. Talvolta ci piace osservare gli umani e la loro naturale risposta ad ogni cosa è: no, non posso farlo. Cthulhu mi ridacchia. Nella nuova energia abbandonate il no. I no non sono conosciuti nella nuova energia. A questo punto Cthulhu comincia tutto un gioco di parole per dire che non ci sono no, no, no, no, che risulta intraducibile in italiano, ma che fa molto ridere il pubblico presente, nota del traduttore. Non ci sono no, no, altre risate. Le parole umane sono a volte molto limitate. Si tratta di... Non si tratta nemmeno del sì, è solo è, può essere, può essere. Potete mostrare le immagini di questo pubblico, riferendosi alle riprese dal vivo sul web. Voi potete essere, voi potete connettervi con tutto il mondo, potete essere ricchi. Potete essere felici, potete essere appassionati, potete essere nuova energia. Vedete come la mente ha questo buffo modo di dire ma no, no, no, ma a tutte queste cose, le restrizioni, le limitazioni, questa vecchia energia è confinata, trattenuta. Siate espansivi, siate audaci, fate un po' i passi come ho fatto io. È una buona pausa mentale essere un po' persi ed aperti. Risate. Esprimetevi, non siate più limitati. Il nuovo progetto di Kutumi. Così, cari Shaumbra, voglio parlarvi di un mio progetto sul quale vorrei lavorare e vorrei farlo con voi. Sapete, avevamo alcuni progetti l'anno scorso quando abbiamo parlato. Avevamo alcuni libri che erano usciti, che erano stati magnificamente canalizzati e disegnati e ora sono a disposizione di tutta l'umanità. Ed è bene vedere come noi abbiamo co-creato in alcune di queste avventure. Ma ora vorrei fare un altro passo. Vorrei un film. Molte risate ed applausi. Kutumi Productions presenta. Kutumi ride insieme al pubblico. Ho notato che alcuni altri gruppi e altri canalizzatori hanno i loro film. What the Blip è l'inizio del titolo di un DVD della scuola di illuminazione di Ramta, nota del traduttore. Ramta non dovrebbe essere il solo ad avere un film. E che cos'è un blip, infine? Ho tentato di capire che cosa significhi veramente. Blip, blip. Risate. Linda dice una brutta parola. Oh! Kutumi e il pubblico ridono. Imbarazzante. E c'è quell'altro film chiamato Il Segreto. Ma è finito. Come può essere un segreto? Molte risate e applausi. Molti di voi l'hanno visto. L'avete detto ad altre persone? Sì. Non può più essere un segreto. Altre risate. E poi c'è il mio preferito. Whining with God. Piagnucolando con Dio. O Conversation with God. Conversazioni con Dio. Grandi risate nel pubblico, anche Kutumi ride. Credo che il canalizzatore andrà in pensione dopo questo. Altre risate. Come sapete, questi sono eccellenti progetti della coscienza. Hanno veramente aiutato a cambiare la consapevolezza sulla Terra. Hanno veramente cambiato le persone aprendole ai nuovi potenziali. Ma eravamo ancora nella vecchia energia. Perciò io vorrei creare un film con gli Shaumbra, con quei volenterosi che vorranno farsi avanti. Un film dal titolo Cosa manca? Alcune risate. Cosa manca? Oh, chi manca? Chi manca? Risate perché lo pronuncio in slang. Questo film sarà progettato in primo luogo per gli esseri umani che hanno alzato le mani, che sono saliti sul treno della coscienza, che sono ancora nella vecchia energia, ma che cercano delle risposte. In parte scherzo, ma in parte sono serio, perché la cosa importante da sapere è che l'ingrediente che manca sei tu. Tu, l'individuo che guarda il nostro film. È triste dire che quello che manca nella vita della maggior parte delle persone è rappresentato da loro stessi. Non voi, loro. Risate. Loro sono assenti. Voi siete qui. Loro sono assenti nelle loro vite. Altre risate. Ciò che manca non siete voi, sono loro. Ma. Molte risate perché Kutu mi fa dei gesti buffi e ride. Immaginate per esempio una bellissima cucina con tutti i migliori elettrodomestici e il frigorifero e la credenza piena del miglior cibo. Cosa manca? Tu, il cuoco. Tu manchi. La persona manca. Gli esseri umani tendono ad essere così assenti dalla loro vita, in parte perché la loro vita differisce, in parte perché la loro vita è confusa, in parte perché sono frammentati in così tanti aspetti diversi che sono fuori in altre dimensioni, lasciando una piccolissima parte della loro essenza realmente qui sulla Terra. Cari Shaumbra, ognuno di voi sa di cosa sto parlando, perché voi avete vissuto questa esperienza di non essere presenti, non qui. Quando avete avvicinato l'energia Shaumbra e il Crimson Cycle, una delle più grandi sfide è stata che l'energia vi obbligava ad essere presenti, e talvolta questo fa male davvero. Talvolta è stato così difficile perché, come ricordate, c'era il costante richiamo: stai qui, sii qui, focalizzati qui, vivi in questa realtà. E spesso, quando volevate andarvene, mentre tentavate di nascondervi fingendo che non fosse così, questa energia Shaumbra vi riportava direttamente nel momento presente, dicendovi: noi abbiamo bisogno di te. Tu hai bisogno di te. Una parte del processo finale sul treno della vecchia energia, che è arrivato alle ultime ore, il segmento finale, è stato rappresentato da voi che siete presenti seduti su queste sedie. Voi eravate presenti su queste sedie stanotte, quando siamo arrivati alla stazione, la stazione del salto quantico. Se quel treno fosse entrato senza nessuno a bordo, non sarebbe stato utile. Se non vi foste presentati qui a Taos, nel New Mexico, non sarebbe stato lo stesso. Quello che manca nella vita della maggior parte delle persone è se stessi. Ciò che manca sono loro. Immaginate una casa bellissima, confortevole, con grandi stanze assolate, meravigliosi pavimenti di legno e morbidi tappeti, preziosi lavori artistici alle pareti, magnifico odore di incenso e con cime di mucca tutto intorno alla casa. Risate, e Kutu mi ride. Vi ho svegliato, eh? Altre risate. Girando intorno a questa casa, cosa manca in questa casa? Per la più parte degli esseri umani, cosa manca? Mancano loro. Manca il tu. Una meravigliosa foresta piena di uccelli che volano, animali che giocano, una lieve brezza gentile e il sole al tramonto. Cosa manca nel quadro? L'essere umano. Il tu. Cos'è accaduto stanotte mentre Amir e Gerard suonavano, costruendo vibrazione ed energia, annunciando l'arrivo del treno della vecchia energia all'ultima stazione? Cosa sarebbe successo se voi non foste stati qui? Voi lo avete fatto accadere. Voi ne avete fatto l'evento che è stato. Voi avete fatto i fuochi d'artificio nell'essere qui, nell'essere presenti. Cosa accade nel bellissimo atto di due esseri umani che fanno l'amore Ma non sono lì? Bene, non c'è nessun bellissimo atto di fare l'amore. È solo una reazione fisica. Sei tu che fai la differenza in questa realtà. Voi Shaumbra sapete ora esattamente di cosa parlo. Voi avete vissuto l'esperienza di essere richiamati nella vostra vita. Sì, siete stati assenti per lungo tempo. Eravate fuori, giocando con le vite passate. Eravate fuori, preoccupati per un futuro che non sarebbe mai arrivato. Eravate fuori, intorpiditi. Eravate su altri livelli, nascondendovi in qualche reame interdimensionale dove non sareste stati trovati. Quando siete tornati ad essere presenti nella vita, in questa realtà, le cose hanno incominciato a muoversi. Ora siete qui. Alcuni hanno ancora dei risentimenti in proposito. Alcuni stanno ancora rilasciando le residue ferite, ma voi avete compreso quanto sia importante essere qui. Quello che manca è l'umano nella loro vita. Come potete conoscere la passione se non siete presenti? Come possono gli umani capire la gioia dell'amore se non sono presenti nella loro vita? Come possono sperimentare la gioia di vivere se sono fuori da qualche altra parte, negando, fingendo? Così, in tutta serietà, Shaumbra, amerei fare un film con voi. Cosa manca? Dove esploriamo l'energia, la fisica, le dinamiche spirituali dell'essere presenti nella vostra vita. Questo possiede un enorme potenziale per gli altri esseri umani, quelli che sono assenti, che sono partiti. Sono in congedo per malattia dalla loro vita. Straordinario potenziale per toccare tutti gli umani del mondo, aiutandoli a tornare nelle loro vite. E fantastico potenziale per gli Shaumbra, per il Crimson Cycle, per tutti voi che sceglierete di lavorare su questo progetto. Posso veder montare la passione, posso vedere il lavoro che ora si farà con la nuova energia. Alcuni di voi hanno la sceneggiatura in mente, alcuni di voi stanno immaginandosi mentre riprendono. Sì, certamente, questo è il mio dono agli Shaumbra, la mia esplorazione nei potenziali della nuova energia. Con questo facciamo un respiro. Facciamo la domanda ora, come gruppo, per vedere come lavora l'energia di gruppo nella nuova energia. A proposito di questo film, chiediamo insieme, Kutumi e il pubblico dicono, che succede a questo film? Quale film? Usate per lo scherzo di Kutumi, cosa manca? Ora lasciamo i potenziali della nuova energia mettersi al lavoro. Lasciamo che inizino la loro espansione, non solo fuori, ma dall'interno, su e giù, in tutte le direzioni allo stesso tempo. E osserviamo cosa accade nel prossimo breve periodo di tempo. Usatelo nella vostra vita. Fate la domanda. Permettete ai potenziali di entrare e poi giocate con loro. E ricordate in ogni momento, siate nella vostra vita. Siate voi, siate pienamente presenti, specialmente in questa nuova energia. Namaste. Applauso e namaste dal pubblico. Nota.